Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Venerdì scorso abbiamo parlato di imballaggi e fatto il punto sulla raccolta differenziata e abbiamo visto come dietro al riciclo dei materiali si celino poi anche importanti economie proprio dal punto di vista energetico. Questa sera continuiamo a occuparci di flussi di materia, ma ci concentriamo su un altro tipo di rifiuto che tra l'altro sembra essere destinato ad essere sempre più abbondante. Parliamo infatti dei rifiuti elettronici, lo facciamo con Danilo Bonato, che è direttore generale di Remedy, a consorzio che si occupa appunto del recupero di questi particolari rifiuti. Buonasera Bonato. Buonasera dottor Melis, buonasera agli ascoltatori. Allora, intanto inquadriamo un po' l'argomento, parliamo dei cosiddetti rifiuti RAE. Che cosa sono e qual è il vostro compito? Sono i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche. Per capirci, sono tutti quegli apparecchi che colleghiamo a una presa elettrica o che vanno con le batterie, quindi dal frigorifero al computer, al televisore o al cellulare. Sì. Il nostro compito, per dirla in modo molto semplice, è entrare per l'Italia, per le isole ecologiche dei comuni, raccogliere tutti questi rifiuti e portarli a impianti di trattamento specializzati in grado di assicurare il riciclo efficiente e nel rispetto anche dei requisiti ambientali. Di che cosa andate in cerca all'interno di questi rifiuti elettronici? Che materiali, per esempio? Ecco, questo è l'aspetto interessante del riciclo dei rifiuti elettronici, perché sono prodotti che hanno tanti materiali di cui sono sostituiti da quelli più classici, pensiamo all'acciaio, all'alluminio di una lavatrice, di un frigorifero, alla plastica di un televisore, il vetro. Ma poi la cosa più interessante è che dentro questi prodotti, non tutti ma alcuni di essi, ci sono anche metalli preziosi. Pensiamo alle schede elettroniche dei computer o dei cellulari o dei piccoli apparecchi elettronici. Qui abbiamo oro, palladio, argento. Ecco, in un cellulare di 100 grammi ci sono 13 grammi di rame e 0,2 grammi di argento, per esempio. E poi abbiamo anche le famosissime ormai terre rare. Okay. Sono salite alla ribalta di recente perché sono delle sostanze la cui produzione per il 90% è in Cina e quindi questo crea anche un problema di Di concentrazione e quindi di approvvigionamento? Assolutamente. E bisogna dire che queste terre rare sono fondamentali per tutta una serie di produzioni delle nostre industrie europee e nazionali, dal settore della difesa al settore automobilistico. In un'auto elettrica ci sono 10 kg di terre rare, per fare un esempio. Anche il settore delle rinnovabili, pensiamo ai pannelli fotovoltaici, lì c'è l'indio, tanto per dirne uno, ma ce ne sono tante, insomma. L'indio di terre. O anche nelle turbine eoliche, quindi per tutta la filiera della green economy le terre rare sono una componente ormai irrinunciabile. E nei rifiuti elettronici abbiamo diverse terre rare, dal litrio abbiamo citato, al neodimio e tante altre ancora, che è importante recuperare, riuscire a intercettare, e qui ci vuole tecnologia specifica, ci vogliono investimenti per riuscire a recuperare, a trovare queste sostanze all'interno dei rifiuti elettronici. Che sono appunto diluite, anche forse il termine terre rare potrebbe essere sostituito, vero, con terre diluite, perché non è che sono elementi rarissimi, ma sono presenti sempre in piccole quantità, un po' dappertutto magari, tranne che appunto in Cina. Sì, non sono poi così rare, è vero, sono molto diluite, in Cina le hanno cercate e hanno scavato per recuperarle e a noi europei per certi versi ha fatto comodo che fossero i cinesi a sostenere i costi ambientali all'estrazione delle terre rare. Quali sono attualmente i numeri della raccolta di questi rifiuti elettronici? In Italia siamo partiti con un sistema organizzato e affidato ai produttori e consorzi come quello di cui io mi occupo nel 2008, quindi un po' in ritardo rispetto agli altri principali paesi europei. Siamo partiti con 2 kg per abitante all'anno di rifiuti elettronici raccolti e in soli 2 anni abbiamo raddoppiato, siamo arrivati a 4 kg per abitante, quindi circa 300.000 tonnellate. Però pensiamo che dai rifiuti elettronici generati dalle famiglie stimiamo di buttarne via circa 800.000 tonnellate all'anno. E la raccolta oggi, come dicevo, è arrivata sulle 300.000, quindi c'è ancora tanta strada da fare. Qual è il vantaggio energetico che si ottiene dal recupero di questi rifiuti? Questo è un elemento fondamentale. Per dare qualche esempio, pensiamo che se riuscissi a riciclare gli 800.000 tonnellate di rifiuti elettronici che produciamo tutti gli anni in Italia, avremo un risparmio di circa 500.000 di tonnellate equivalenti di petrolio, risparmio netto rispetto all'estrazione nelle miniere di questi materiali. Certo. Che è un po' il consumo energetico di una città grande come Parma. Mi chiedo a questo punto se esistano politiche o regolamenti che invece siano volti, diciamo, a ridurre all'origine la massa dei rifiuti prodotti o a rendere più facile il recupero di questi elementi, che appunto è molto difficile, richiede tecnologie sofisticate perché sono elementi, per esempio queste terre rare, molto dispersi, come dicevamo. Sì, da un lato c'è un'iniziativa europea che pone ai produttori di introdurre delle politiche cosiddette di eco design, quindi è possibile migliorare la qualità dei prodotti scegliendo modalità produttive che facilitano poi il recupero, il riciclo e anche minimizzino il danno ambientale. Quindi l'eco design diventa un elemento fondamentale per riuscire a rendere più efficiente ed efficace il recupero e accedere poi a questi materiali. Ci sono dei vincoli? C'è una normativa vincolante da questo punto di vista? Esiste? Sì, esiste, si chiama la Energy Using Product, che è una direttiva europea che definisce dei criteri che i produttori devono seguire per poter immettere sul mercato i propri apparecchi, e questo nell'ottica sia dell'efficienza energetica sia di un design for recycling, vale a dire progettare il prodotto per rendere più facile, più agevole il recupero dei materiali, certo. Grazie Danilo Bonato. Grazie a voi, buonasera. Ci fermiamo qui per questa sera, appuntamento a domani.